Signor Uzzu mio, faciti bon tempo. Aiuto amanti mio, menso lumari. L'arvuli d'oro è lì, tinni d'argento. L'amaro nozza mi la va aiutare. Che possano arrivare un salvamento, come arriva una litra mai a fare, ci ammettiri due duci paroli, come ti l'hai passato mari mari. Arsiranna giuletto era curcata, na femmina già chi contava l'uri, e l'acqua chi più via era pilata. Come ti l'hai passato, amore, amore? E signoruzzo mio, faciti bon tempo. Aiuto l'amanti mio, menso lumari. L'arvuli d'oro è lì, tinni d'argento. L'amaro nozza mi la va aiutare. Buona domenica da Pino Simplicio, avete ascoltato la voce e il suono di Gianna Guaiana. Io per questo ringrazio il fraterno amico Niccolò D'Alessandro e la sua gentile consorte Aurelia Sinagra, che saluto perché in questo momento via internet ci sta seguendo, come tanti e tanti seguono ogni domenica questa trasmissione. Ne sapremo di più di Gianna, ne sapremo di più di Niccolò D'Alessandro in una nuova veste, perché ascolteremo La guardatrice dell'acqua e altri racconti. E ne sapremo ancora di più stamane parlando con Francesco Barbaccia, che io saluto affettuosamente per queste iniziative interessantissime, per questa attività intensa dell'Agorà. Adesso le riunioni si effettueranno e questo l'abbiamo così appreso con tanto piacere e tantissima soddisfazione al Teatro Cicero Comunale di Cefalù, quindi sicuramente uno spazio più accogliente per ascoltare, per confrontarsi e per portare avanti quelle situazioni che l'Agora ormai ci ha abituato a portare avanti da anni. Stai un minuto calmo perché devo salutare un'altra persona alla quale mi sento particolarmente legato per i nostri trascorsi alla Fondazione Mandralisca di Cefalù. È il vicepresidente Maglio Peri, che io ho invitato stamane unitamente alla sua compagna Marisa Dispensa. Maglio è il vicepresidente della Fondazione Mandralisca, mentre Marisa a titolo gratuito è la direttrice. Questo noi lo puntualizziamo sempre perché è un fatto importante. importante. Con gli ospiti studio daremo vita a questa puntata di domenica 28 ottobre, di qua e là tra una novità e l'altra, ma permettetemi di fare un appello. Andiamo a votare. Si vota soltanto oggi, le urne sono aperte, lo saranno fino alle ore 22. Per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Si vota, abbiamo iniziato questa trasmissione con questa voce splendida, lasciamelo dire Giana, che ci fa toccare con mano la nostra terra di Sicilia, i nostri sentimenti, tutto quello che noi sentiamo dentro. E oggi noi siciliani siamo chiamati con la nostra responsabilità e quindi andando a votare, perché questo è importante, andare a votare, di continuare a lavorare per la nostra terra di Sicilia. Ovviamente non parleremo di politica, ma l'appello va rivolto. Devo ricordare che si vota fino alle ore 22 e si vota soltanto oggi. Oggi domenica 28 ottobre, domani lunedì a partire dalle ore 8 inizierà lo scrutinio. Quindi anche stamane avere in studio questi ospiti che ognuno di loro rappresenta uno spaccato della nostra cultura e della nostra sicilianità, per me è un fatto importantissimo. Nicolò, prima di far parlare il nostro giovane Barbaccia, come ti è venuta proprio questa idea? Tu me l'hai trasmesso quando ci siamo visti a Palermo. Pino, devo farti ascoltare una voce splendida. La presenti questa voce splendida? Ecco, ci presenti Giana? Sì, intanto buongiorno a tutti quanti i radioascoltatori che sono collegati con CRM per radio, e dico subito perché sono qui con Giana. Intanto dico che c'è uno stranissimo, interessante legame che da due o tre anni porta alcuni miei racconti ad essere accompagnati da Giana Guaiana, a Catania per esempio, alla libreria Tertulia, siamo stati al Calesa di Palermo e poi recentissimamente siamo stati anche al Teatrino delle Beffe per sostenere la loro attività, insomma una specie di uso un termine improprio naturalmente per quello che mi riguarda, uno spettacolo di giro, però mi sono accorto che il suono e la voce di Giana Guaiana, che sono per quello che mi riguarda musica e sono soprattutto acqua, sposano con naturalezza una serie di miei racconti già pubblicati. La guardatrice dell'acqua per esempio è uno dei racconti che avrò il piacere di leggere, proprio perché credo che bisogna riappropriarsi di ciò che è normale. Voglio dire una cosa importante, se me lo consenti, se il tempo se mi dici che posso continuare. Credo che viviamo un momento di grande difficoltà e non c'è bisogno, questo è quasi tautologico, una cosa abbastanza stupida, e viviamo un momento di grande difficoltà e dobbiamo, secondo me, riappropriarci dei valori della normalità. Io vivo ancora a distanza di tanti anni il ricordo della nonna che mi faceva dei racconti, mi raccontava, e questa cultura orale mi dava la possibilità di immaginare, di sognare, di ricordare soprattutto, perché siamo diventati senza memoria. Allora quando tu mi hai detto perché non vieni a fare una puntatina a CRM EP Radio, dico ma molto volentieri, dico perché non propongo una lettura. La stessa lettura che ho fatto in altre occasioni, quindi mi vedrete in una veste non certamente usuale, perché molti conoscono quello che faccio attraverso il disegno. Poi quale migliore occasione per stare assieme a una splendida voce come quella di Giana, che molti conoscono, e mi farebbe piacere che molti difendessero questa voce che rappresenta davvero la Sicilia colta, perché lei non è una cantante che si esprime attraverso il folklore. Noi siamo abituati a un atteggiamento folcloristico della musica siciliana, mentre Giana è una che scava, che cerca dei brani che ci rappresentino ed eccola qui. Già abbiamo ascoltato un primo brano dal titolo Prendo il canto di donne di marinai, raccolti, sono dei canti che lei ha raccolto viaggiando tra Favara e Trapani e li ha assemblati, ha fatto questo brano splendido. Presentare Giana Guaiana basta, credo, la sua voce, non c'è bisogno di raccontarla, Giana si ascolta. E noi l'ascolteremo durante tutta la trasmissione e non ci potevano essere stamane interlocutori e ospiti migliori per me come Francesco Barbaccia, perché lui è qua in rappresentanza dell'Agorà, e Mallo Peri perché per me rappresenta, saluta il presidente Piscitello affettuosamente e tutto il consiglio d'amministrazione della Fondazione Culturale Mandalisca, ma in questo momento permettetemi di dire il mio pensiero è rivolto a tutto il personale della Fondazione Mandalisca per la situazione difficilissima che si sta vivendo. Adesso ne parleremo con Maglio, ecco, ed fare intervenire e interagire queste voci per me oggi è un fatto importantissimo, perché il significato che voglio dare a questa puntata del 28 ottobre 2012 è quello che la voce della cultura deve essere sempre una voce forte, e lo è anche con l'Agorà. Francesco, buongiorno a tutti, ringrazio il preside Pino Simplicio per la presentazione, per le parole che ha usato, e vorrei cominciare subito nello spiegare cosa quest'anno l'Agorà farà. Dopo il 19 luglio, con ormai consueta manifestazione in ricordo delle vittime della mafia, quest'anno ci siamo presi un attimo di riflessione. Abbiamo pensato un po' e abbiamo deciso un po' di cambiare la tipologia dei nostri incontri. Già si nota dal cambio della sede dei nostri incontri. Non sarà più la chiesa dell'Annunziata in Corso Ruggero, ma quest'anno, non so, forse più per una vicinanza verso la città, forse per voler utilizzare ancora altri spazi che ci mette a disposizione Cefalù, abbiamo deciso di, in collaborazione anche col comune quest'anno, di spostarci al teatro comunale. Pensiamo in questo modo anche di riuscire a valorizzarlo. Ora spiego perché. Quest'anno, oltre che occuparci sempre dei temi di cittadini, dibattiti di cultura prettamente cittadina, abbiamo deciso di allargare un po' gli orizzonti. Abbiamo quindi deciso di iniziare dei dibattiti che avranno come centro i titoli del credo. Sembrerebbe una cosa prettamente religiosa, e invece come lo vogliamo impostare noi non lo è. Noi inviteremo, e il primo incontro sarà il 3 novembre, ad ogni incontro due interlocutori di spicco, un teologo e un laico, e li porteremo a portare le loro ragioni su un tema di dibattito. Per esempio, il primo incontro, che sarà il 3 novembre alle 18 al Teatro Comunale, avrà come titolo Credo la Chiesa. Interverranno il vescovo di Cefalù, Monsignor Vincenzo Manzella, e il direttore regionale di Sicilia, Giovanni Pepi. Lo stile rimarrà sempre quello dell'Agorà. Ci saranno sempre i 90 minuti, si faranno intervenire prima i due interlocutori principali, ma dopo si aprirà il dibattito all'assemblea. Voglio chiarire quindi sin dall'inizio che non sarà una conferenza. Non è stile l'Agorà fare una conferenza, non penso lo sarà mai. Noi come primo obiettivo abbiamo la partecipazione della cittadinanza, i principi di cittadinanza attiva, il coinvolgimento di tutte le forze sociali, delle associazioni, eccetera, e così continueremo. Infatti, durante la serata, per questa volta, in questo incontro, ci sarà un intermezzo a cura dell'Associazione Culturale L'Armonia, quindi del maestro Antonio Salamone. Di volta in volta si cambieranno sia moderatori che associazioni che interverranno all'interno del dibattito. Come primo incontro il moderatore sarà Mario Magaluso, direttore di Cefalù News. Ecco, e qua ti fermi. Sì. Maglio, grazie per essere presente, grazie a te e grazie a Marisa. Ecco, prima di parlare della situazione difficile, parliamo dell'intensa attività che il Mandralisca ha concluso intanto a settembre per quanto riguarda le manifestazioni estive, e che poi sicuramente riprenderà prossimamente. Ecco, questo vuole essere un augurio, perché ripeto, la situazione allo stato attuale non è delle migliori. Maglio, ecco, l'intensa attività del Mandralisca come la puoi sintetizzare? Però una piccola premessa, io devo ringraziarti di avermi invitato. Tra altre cose, io ho un grande affetto verso di te, perché abbiamo trascorso 6 anni indimenticabili, quando abbiamo lavorato assieme tra tante difficoltà, ma anche tra molte soddisfazioni. E allora quest'anno abbiamo fatto, ecco, io devo partire da una premessa, che all'inizio noi non sapevamo se riuscivamo a varare il cartellone estivo, perché le difficoltà economiche, che poi cercherò di illustrare meglio, ci impedivano assolutamente di trovare dei fondi per poter varare un cartellone estivo. Poi fortunatamente, attraverso alcuni sponsor cefaludesi e soprattutto attraverso la Fondazione Buttitta, siamo riusciti a raggranellare un po' di soldini per varare questo cartellone. Tra l'altro, questo cartellone che è stato quasi a costo zero, perché sia gli artisti che sono esibiti sia i conferenzieri che sono venuti hanno, diciamo, il costo è stato zero. Devo dirti che è stata una lunghissima estate quest'anno, tant'è che io pensavo di fare meno attività rispetto all'anno scorso, poi mi sono ritrovato con più attività rispetto all'anno scorso. Però la cosa che mi dà molta soddisfazione la presenza del pubblico. Noi ogni sera avevamo tantissimi spettatori, chiamiamoli così, che affollavano l'affascinante terrazzino del Mandralisca, che tu conosci benissimo. Quindi sono molto soddisfatto. Credo che abbiamo fatto un'operazione culturale di un certo livello. Non dovrei essere io a dirlo, però in estate, quando più che altro le persone si dedicano ai divertimenti, ai mangiate, detto alla camilliera e così via, invece hanno affollato fino a tardi il terrazzino del Mandralisca. Devo dire che le conferenze sono state tutte di ottimo livello, i concerti altrettanto, e quindi diciamo che siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Non è nucleo tutto quello che tutti quelli che hanno partecipato, perché altrimenti la trasmissione dovremmo dedicarla a loro, che sono stati ben 20 incontri tra conferenze, concerti e proiezioni cinematografiche. Ti ringrazio per questo primo intervento. Ritorniamo a Giana. Ritorniamo a Giana Guaiana, perché la sua è stata una scelta nel genere, la scelta della Sicilia e del Mediterraneo. E insieme scelta del cuore e scelta metodologica che si inserisce in un più ampio interesse per la musica in genere e nello specifico per i canti tradizionali, considerati potenti mezzi espressivi e comunicativi, finestra sull'etica, la cultura, la storia dei popoli. E che poi c'è la giostra, questo è un lavoro importantissimo che hai realizzato nel 2009, l'hai autoprodotto, e questo sì, ti fa merito, perché io che conosco Nicolò, ecco perché siete insieme anche a lavorare in questa direzione, in questo senso, perché lui pigia finché non si raggiungono i risultati. E il risultato, dal mio punto di vista, intanto ascoltiamo sulla giostra cosa scrive Giovanna Marini: la voce è bella, i pezzi pure, tutto molto piacevole, mi piacciono gli arrangiamenti così sobri, senza mai sovraccaricare, ma lasciando libera la voce, perché quella è la parte importante del pezzo popolare. Ecco, siccome non ti faccio parlare per adesso, ma desidero che tu canti, se ci puoi far ascoltare un altro pezzo, grazie. Sì, allora vi faccio ascoltare direttamente questo, che poi magari riprenderò un attimino. a Giostra, su cui vorrei dire anche giusto che è una traduzione in siciliano di un brano di Angelo Branduardi, La Giostra, che è uscito in un antichissimo CD del 1983, Cercando l'oro. E la cosa per me fantastica, quasi miracolosa, è stata nella mia carriera di essere stata invitata da Angelo Branduardi stesso a cantare questo brano all'interno di un suo concerto, e quindi mi rende particolarmente felice questo. E noi ti ascoltiamo con piacere, Gianna, noi e tutti i radioascoltatori che ci seguono in voce e in video. Piazza di giornali soli, vistuta festa, la gente passia, si scialano li piccilitri, già fanno a giostra firria. Li vecchi che stanno assitati s'appinnicano spesso allo cauro rosoli, la banna a comincia a suonare canzoni antiche d'amore. E passano giornali e stagioni, da chiazza la gente passia, continua a suonare la banna, già funno a giostra firria. Da chiazza di giornali soli, vistuta festa, la gente passia, la banna a comincia a suonare, già funno a giostra firria. Dormono li vecchiareggi, giocano e ririno li picciriggi, la banna continua a suonare canzoni antiche d'amore. E passano giorni e stagioni, da chiazza la gente passia, continua a suonare la banna, già funno a giostra firria. Qua c'è l'applauso da parte di tutti coloro i quali stanno seguendo qua e là tra una novità e l'altra, domenica 28 ottobre 2012 in diretta. Nicolò, lo dicevi tu, non solo l'artista, ma anche quella persona splendida che ha firmato racconti, è stato anche... sono state pubblicate i tuoi disegni in riviste, in giornali, in libri. Poi abbiamo anche il Nicolò D'Alessandro, direttore artistico per alcune case editrici. Quindi questa tua presenza qua, unitamente alla voce e al suono della Digiana, Non è assolutamente una sorpresa perché ti conosce bene, soltanto che ti sei cimentato adesso in questa lettura che io direi di farci ascoltare subito, è possibile? Certo, intanto grazie per questa presentazione che mi dà un'immagine di un Niccolò D'Alessandro che non conosco. Io sono una persona che cerca di capire, non ho capito niente, faccio un sacco di esperienze per cercare di capire. E allora dico subito, immaginiamo tutti quanti di essere in una stanza con una nonna, in questo caso un nonno, che racconta una storia. Cerchiamo di ricordare che le nostre nonne ci raccontavano delle favole, ci raccontavano le storie che avevano imparato dalle loro mamme. Ecco, è questo un po' quello che vorrei fare emergere. E allora, con questa, diciamo, atmosfera detta, mi farebbe piacere leggere un mio racconto pubblicato abbastanza recentemente dal titolo La guardatrice dell'acqua. Lei stava ore ed ore a guardare incantata. Sin da piccola lei guardava. Mi spiego meglio per rendere più facile ai giovani la comprensione su ciò che dico. Quasi una premessa su cosa significhi guardare e ancor più cosa può significare incantarsi guardando. Tutti, è ovvio, guardiamo, ma una cosa è guardare con gli occhi ciò che abbiamo davanti e un'altra cosa, ancor più straordinaria, è vedere il mondo con il cuore incantato. Sapete, è come scoprirsi innamorati nell'abbandono della propria coscienza, sostenuta da una liquidità silenziosa e severa che supera l'inganno dell'illusione, delle illusioni terrene. Ogni cosa appare sospesa, il mondo intero appare desiderabile, tutto diventa futuro. Rimanere incantati a vedere veramente e vivere intensamente il presente che attinge a piene mani al gran patrimonio del rinnovarsi del quotidiano, che poi, detto tra noi, è il regolare flusso dell'esistenza. Sin da piccola la giovane stava ore ed ore a guardare con occhi d'incanto l'acqua. Avete capito bene? Guardava l'acqua. Sia che si trovasse di fronte ad uno stagno, ad una polla d'acqua sperduta, sia che si trovasse di fronte ad un fiume o ad un torrente, sia che si trovasse di fronte al mare, per lei era un momento di felicità stare a seguire il lento sciabordio delle onde. La realtà per lei appariva sospesa, era intenta a guardare, a seguire il lento, altre volte impetuoso, movimento dell'acqua, e s'annullava il tempo. La conobbi per caso, la notai accovacciata che fissava il movimento impercettibile dell'acqua, la trasparenza, la sua assoluta nel contempo lieve sospensione che ai miei occhi coincideva con il suo giovane sguardo. Mi pareva diversa dalle altre bambine, dai bambini che ciarlavano, che scompostamente si agitavano, e abitualmente avviene, che si chiamavano a gran voce e la chiamavano ripetutamente, ma lei non rispondeva, era distratta da ciò che vedeva, colpiva quella sua composta concentrazione. Immaginai superficialmente che la bambina che avevo di fronte fosse turbata da chissà quali pensieri, povera piccola, che il suo comportamento fosse il frutto di una grande solitudine, che soffrisse della mancanza d'amore dei suoi genitori. La immaginai addirittura orfana, assetata d'affetto, o non saprei che altro. Niente di tutto questo, viva Dio, era soltanto concentrata a guardare l'acqua. Vedeva scorrere l'acqua, ma qualcosa in più si aggiungeva alla sua non comune concentrazione. Lo diceva il suo corpo, la quasi fissità dello sguardo, quella straordinaria meditazione che esprimeva il suo essere. Non rispondeva ai sempre più radi ed annoiati richiami dei suoi compagni che, per la verità del ricordo, osservandoli, mi apparivano molto diversi da lei, quasi lontani, in una parola, estranei. I suoi occhi avevano una carica diversa, una inusuale energia per una bambina così piccola. La sua incantata figuretta, per chi fosse stato disposto a notarlo, e io lo feci, possedeva qualcosa di indefinibile e di misterioso, esprimeva comunque una pacata passione, direi quasi un amore, ma forse è meglio dire esprimeva un'autorevolezza fuori dal comune ed un grande irripetibile fascino. Pensava forse all'abisso, pensava alle conchiglie, ad animali marini, a pietre levigate, a camminamenti sotterranei, a barriere di coralli. Guardava la mobilità dell'acqua voluta dal più debole refolo del vento. Leggere increspature si trasformavano improvvisamente in movimenti più decisi, poi più ritmati. Attraverso lo sguardo della bambina mi accorsi anch'io che l'acqua aveva in sé qualcosa di vitale, un'energia segreta che il movimento restituiva all'aria, al suo straordinario infantile sguardo d'incanto, un'energia che si espandeva intorno e che spiegava il mondo. Della giovane bambina che stava ad osservare l'acqua persi completamente il ricordo. Avviene che le cose che ti interessano, che colpiscono la tua immaginazione, che ti fanno percepire il mondo, si rincantucciano nel tuo cervello tra le idee, i pensieri, gli affanni, i ricordi e diventano memoria. Si trasformano nella tua storia personale. La vita, si sa, è in continuo movimento. Il passato e il presente si integrano vicendevolmente, sono una cosa sola. Il ricordo del passato, l'insieme dei ricordi, è quello che oggi siamo diventati. Capita abbastanza spesso di riflettere sul fatto che la vita di ognuno di noi è come il fluire dell'acqua. Appariranno banali ovvietà questi pensieri ad alta voce, me ne scuso, soprattutto con i più giovani, verso i quali bisogna essere sempre chiari ed onesti. Non è facile del resto comunicare le proprie esperienze agli altri, non è una cosa facile per niente, anzi, sono passati molti anni che per pudore non rivelerò. Dal tempo ormai definitivamente trascorso in cui avevo notato quella bimba, attratto da una grande nostalgia del luogo, dei luoghi, ritornando dove avevo trascorso l'infanzia, mi ritrovai a passeggiare sulla spiaggia, una spiaggia di sabbia finissima e gialla, e alghe e pietre e legni abbandonati. Avvenne per un caso quello che mi appresto a dirvi. Vidi una figura di donna seduta, intenta a guardare la distesa d'acqua, il mio mare. Fui colpito dal suo sorriso che rivelava anni ed esperienza. Quel giorno, dedicato al ricordo della mia gioventù, i suoi capelli biondissimi mi apparivano una luce delicata e pacificante. Mi avvicinai e la guardai più da vicino. Una particolarità mi incuriosì non poco: alla base dei lunghi e biondi capelli aveva una sottilissima curata treccina che si faceva notare e che sembrava finta. Almeno questa fu l'impressione. Non si accorgeva di me, guardava il mare, guardava l'acqua con un'intensità e una concentrazione straordinaria a me familiare. Improvvisamente la ricordai. Ebbi un balzo al cuore. Com'era possibile? Facevo fatica a credere a ciò che vedevo. La donna che guardavo in un pensiero senza tempo era la bambina, diventata ormai adulta, che guardava l'acqua. Oddio mio, era proprio lei. Quanti anni erano passati da allora? Quanti anni erano già trascorsi della mia vita? Riflettevo confuso, ma non poteva essere lei. Non poteva essere seduta nello stesso posto. Eppure la sensazione era quella. Me ne dovetti convincere definitivamente. Era la bambina di allora, la donna che guardava l'acqua. Riflettevo, pensieroso e sorpreso. Ero turbato dall'improvvisa scoperta. Il passato e il presente, allora, ed il tempo, i ricordi, il mutamento che ci accompagnano momento per momento, cosa sono? Quanti pensieri, quanti ricordi, quanti oblii insoluti e irrisolvibili. La figura seduta era sempre intenta a guardare il mare. L'immobilità del suo sguardo antico era paragonabile al mare che per chi guarda è sempre lo stesso, immutabile e uguale a se stesso, mentre chi vede veramente ne percepisce istante per istante l'eterna mobilità. Il mare, l'acqua, momento per momento muta, non è mai uguale. Eccola la rivelazione che mi si presentò improvvisamente. Lo sguardo della donna era l'inamovibilità dell'amore, dell'interesse per qualcosa. Era la forza segreta della passione, si rivelava come la vigoria della concentrazione che non può essere misurabile con il tempo umano che trascorre indifferente alle precarie motivazioni che ci inventiamo miserevolmente per giustificare a noi stessi, perché non riusciamo a capire la quotidianità. Così va la vita. In tal modo la vita medesima è paragonabile all'acqua. Trascorre tra il lento ed altre volte impetuoso movimento dell'intera esistenza ed è in ognuno di noi come se il fluire costante del sangue che muore, che si rigenera dentro gli spazi angusti del percorso obbligato delle vene, segua lo stesso ritmo dell'acqua ed il cuore spinge l'energia della vita in questo fluire di liquidità sin quando questa energia ha compiuto il suo ruolo. Capì, in tal modo è solamente ora, dopo così tanto tempo, ciò che vedeva la bambina diventata guardatrice dell'acqua, ciò che molti altri non vedevano o non sapevano vedere. Imparava la donna, accumulava sin da bambina esperienze antiche che gli altri negavano scioccamente alla loro esistenza. Queste riflessioni naturalmente non sono mie, appartengono all'autorevolezza dello sguardo della guardatrice dell'acqua che aveva capito molto prima di me il significato profondo dell'esistenza e la possibilità di darsi alcune risposte, poche in verità, sul mistero, sull'incanto della vita che scorre anche guardando con amore l'acqua, vedendola. Complimenti maestro. Ecco, io direi se ci possiamo fermare un momentino, io passo la linea alla regia per una pausa pubblicitaria e subito dopo riprenderemo, anche perché la guardatrice dell'acqua letta da Niccolò d'Alessandro con la voce e il suono di Gianna Guaiana è stato tra l'altro un contributo al teatro delle Beffe e la rappresentazione, se non ricordo male, è stata il 27 settembre 2012. Ne parliamo tra un minuto. Linea alla regia, grazie. GRM pubblicità. Il modo migliore per rendere felice una donna è regalarle un gioiello, un valore eterno, adatto a sigillare unioni profonde e inossidabili. Da Mineo Gioielli, le più preziose idee regalo proposte con professionalità ed eleganza, perché un gioiello è testimonianza.